Qual è dunque questa città triste e silenziosa che nasconde la sua fortuna, la sua bellezza, la sua origine? Vi si respira un certo odore inebriante e nauseabondo d'atticismo e teologia, di poesia e di fiori ormai appassiti, di biblioteche e di musei, d'amore e morte che nessun poeta sarebbe mai capace di raccontare. Jules Janin. Tre frecce per tre leggende.